Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Sergio Sosso di Sentieri Selvaggi per presentare la serie TV Eterno Notte di Marco Bellocchio, di cui andrà al cinema la prima parte giovedì 19 maggio 2022, la seconda il 9 giugno e poi in autunno nella TV di Stato come serie TV per l'appunto. Sergio, ben trovato. Eccoci, come sempre, molto contento di essere su queste frequenze. Anche per noi è sempre un piacere. Raccontiamolo un po', visto che hai avuto modo di vederlo prima di andare a Cannes. Eterno Notte è chiaramente il ritorno di Marco Bellocchio su una storia che lui ha già raccontato, quella del rapimento di Aldo Moro, che in qualche maniera ci ha raccontato con Buongiorno Notte, no? Che è uno dei suoi titoli più celebri, oltre che in qualche modo il film, insieme all'ora di religione, che ne rilancia un po' la carriera in questa seconda parte della sua filmografia, dove trova un nuovo favore di pubblico coniando proprio questa formula tra una realtà storica istituzionale che però è costantemente attraversata dall'immaginario catodico, dall'archivio, dal repertorio, e poi invece le solite astrazioni interiori, no? La solita visionarietà che lui si porta dietro ovviamente sin dalle origini. Quindi Eterno Notte è un ritorno su una storia già raccontata, ma ne racconta tutto quello che non vediamo, perché Buongiorno Notte era tutto all'interno dell'appartamento rifugio dove Aldo Moro viene tenuto prigioniero, mentre invece adesso si racconta un po' tutto quello che succedeva a Roma e non solo in quegli stessi giorni. La serie, che è di 6 episodi, non è una serie che segue una narrazione progressiva, ma è character driven, direbbero quelli bravi, nel senso che ogni episodio è legato ad un singolo personaggio, quindi c'è un episodio su Moro, un episodio su Cossiga, uno sul Papa, uno su Eleonora Moro e così via. Quindi ogni episodio segue un personaggio nello stesso arco di tempo. Ti interrompo un attimo, aggiungo che oltre al percorso di Bellocchio c'è anche quello di Fabrizio Gifuni, che in quel periodo storico si è soffermato a lungo, ha portato anche a teatro il memoriale Le lettere di Aldo Moro. Assolutamente, Fabrizio Gifuni in qualche maniera sempre di più sta diventando l'alter ego di Aldo Moro sugli schermi e sui palchi, e questo è molto interessante perché in qualche modo, come già in Buongiorno Notte, Moro è una sorta di spettro della storia italiana, una sorta di entità sospesa, una versione ufficiale della storia e tutto quello che non sappiamo esserci sotto, poi la maniera con cui venne trattato, il periodo del suo rapimento, le trattative, i depistaggi, l'intervento americano e così via. Tutto questo c'è perché in qualche maniera Bellocchio si appoggia a una squadra di sceneggiatori, c'è buona parte della squadra di sceneggiatori di 1992, la serie su Tangentopoli, quindi una squadra di sceneggiatori che sta lavorando molto su quello che ormai abbiamo imparato a chiamare il true crime, no? La maniera con cui la serialità affronta i fatti di cronaca nera, non solo. Per cui c'è un linguaggio molto contemporaneo, questo stupisce sempre del Bellocchio degli ultimi anni, no? Un autore più che ottantenne che è in grado di affrontare, come anche nel Traditore o in altre sue opere recenti, un linguaggio molto vicino alla contemporaneità. Leggevo prima la svolta pop di Marco Bellocchio da qualche parte, credete, ma non è da oggi ovviamente, però ecco, è un autore che sta riuscendo davvero a connettersi con il linguaggio spurio e frammentario della contemporaneità, e questo sicuramente è molto interessante nella serie. Chi ama le sue astrazioni, quelle proprio visionarie, allucinatorie, ne troverà tantissime, e in più c'è questo aspetto sardonico che è molto evidente quando si parla con lui, no? Quando lo si sente nelle interviste, negli incontri, c'è sempre una sorta di sogghigno su queste storie. Alcuni personaggi sono apertamente grotteschi, ma non un grottesco sorrentiniano, attenzione, ma più un tragicomico, c'è cioè un grande senso della tragedia, soprattutto in Cossiga e in Paolo VI. Devo dire che questi due episodi, che sono quelli che si vedranno in sala per primi, sono il secondo e il terzo, e poi più in là invece a giugno l'episodio dedicato a Eleonora Moro, interpretata da Margherita Bui, sono sicuramente i momenti più straordinari, che rinnovano proprio le due grandi anime di Bellocchio. Quello su Eleonora Moro è un dramma da camera, un dramma di famiglia, lei insieme alle figlie, ai figli deve capire come comportarsi, mentre invece in questo Cossiga di Fausto Russo Alesi e in questo Paolo VI di Toni Servillo c'è invece il Bellocchio più legato a una visione ancestrale della storia, ecco. Che panorama del paese esce fuori? Questo credo che farà molto discutere, perché sembra una Roma in costante stato di assedio, non soltanto per il clima politico, per quanto insomma la serie sia costantemente attraversata da suoni di sirene, macchine di polizia, sembra che fuori si stia proprio combattendo una guerra, ma poi proprio anche da un punto di vista sociale, ci sono delle sequenze, potrebbero sembrare anche grossolane nell'equilibrio con cui invece l'occhio è solito tratteggiare le cose, sono due ragazzi che si fanno una pera su un autobus, uno scippo in piena piazza, che però secondo me servono proprio per raccontare la distorsione con cui quel periodo viene magari ricordato e raccontato, no? Come un'epoca di assoluta anarchia, eccetera, e anche e soprattutto la distanza tra questa storia e un'effettiva urgenza. C'è un momento in cui Moro dice proprio a Berlinguer che vorrebbe sapere di cosa parlano le loro scorte, le scorte di entrambi i politici, che mentre loro stanno avendo uno scambio in una macchina, in realtà stanno parlando della Roma, del risultato della partita, e sente lui chiaramente una distanza nei confronti di un dato di realtà, no? Però ecco, insomma, non è un cineasta realista, sicuramente per lui il dato reale viene costantemente traslato verso una dimensione allucinatoria, no? E anche questi aspetti che secondo me faranno discutere, come tutte le volte che Bellocchio parla di casi reali, come fu per Eluana Englaro, come fu per Poggiorno Notte, sono abbastanza sicuro che ancora una volta non mancheranno le polemiche, però questo conferma proprio la forza di un cineasta ancora non pacificato. I vari episodi si compongono armoniosamente? Sì, il sesto episodio è quello che li riunisce tutti. Negli altri, obiettivamente, per quanto ci sia una capacità anche combinatoria, nel senso che si possono vedere a ordine sparso, alla fine di ogni episodio viene introdotto il personaggio dell'episodio successivo, cioè questo gioco, per cui in qualche maniera sì. Ecco, ovviamente i personaggi, ad esempio appunto Nora Moro compare anche in altri episodi, Cossiga compare spesso, mentre invece alcuni sono più ridotti, Papa Paolo VI compare in un unico episodio, così come anche ce n'è soltanto uno interamente dedicato al gruppo di brigatisti, con Moretti e così via. Ecco, loro compaiono solo nella quarta puntata, ovviamente su quell'aspetto della storia si basava tutto Buongiorno Notte, quindi chiaramente un Bellocchio non ha ritenuto di ritornare anche su quella parte della storia. La serie TV Esterno Notte di Marco Bellocchio, la prima parte al cinema da giovedì 19 maggio 2022, la seconda dal 9 giugno 2022 e in autunno in TV sulla Rai. Un saluto e un ringraziamento a Sergio Sosso di Sentieri Selvaggi. A presto Sergio. A presto, un abbraccio, ciao. Con Simone Totola di Officine Ubu, che distribuisce il film Gagarin, Proteggi ciò che ami, al cinema da giovedì 19 maggio 2022, ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Lo raccontiamo? Gagarin, Proteggi ciò che ami, questo è il titolo del film. Racconta la storia di Yuri, che è un ragazzino adolescente che vive alle periferie di Parigi. E Gagarin del titolo in realtà è questo immenso edificio residenziale che fu costruito negli anni 60 in onore di Yuri Gagarin, e questo edificio fu eretto come simbolo del progresso, della resistenza, e lui vive in questo grande edificio che però, dopo un'ispezione da parte di architetti e ingegneri vari, è stato deciso che deve essere demolito praticamente. Quindi tutte le famiglie che vivono in questo grande complesso residenziale devono trovarsi un altro posto dove andare a vivere. Lui però in questo grande edificio c'è nato, si è costruito una famiglia, gli amici, i vicini di casa, e quando arriva la notizia della demolizione lui inizia una sorta di resistenza aiutato da altri due suoi amici e quindi si impegna per cercare di salvarlo andando pian piano a sistemare tutto quello che non va, dall'impianto elettrico agli infissi e tutto quanto, per cercare di costruire una sua dimensione e reggersi lui stesso come simbolo della resistenza, per impedire che le sue radici, i suoi ricordi e tutto ciò che lui ha amato per tutta la sua vita sparisca nel nulla. E quindi ci sarà questa meravigliosa evoluzione di un personaggio, un ragazzino che fondamentalmente non ha nulla se non un grande amore per la vita e per ciò che comunque lui ha sempre difeso, nei valori delle periferie, dei suoi vicini di casa, e dal nulla lui riuscirà a creare veramente un mondo dentro questo edificio che sta per essere smantellato, fino a poi a portarli verso un finale che secondo me raggiunge livelli di poeticità che raramente si sono visti ultimamente. Infatti il film è stato presentato a Cannes un anno e mezzo fa, poi a causa del Covid è rimasto fermo, ma già a Cannes il direttore del festival, Thierry Fremeux, lo aveva presentato come uno dei film assolutamente più visionari, più poetici che sono passati ultimamente al festival, ed è stato già anche definito come uno dei film degli esordi, perché ricordiamo che il film è un esordio, un'opera prima di due registi, giovani registi francesi, è già stato considerato una delle migliori opere prime che siano capitate ultimamente al cinema. Opera prima, cosa hanno fatto prima? Vengono dai cortometraggi, dai documentari, sai qualcosa del loro percorso? Non molto, appunto, perché essendo un'opera prima, i due registi che si chiamano Fanny Biatar e Jeremy Truy avevano diretto solamente un cortometraggio e questa è la loro opera prima. E ciò che stupisce maggiormente è proprio la sicurezza, il rigore con cui questo film è stato girato. Consiglio a tutti di andare a cercare il trailer, le foto, le clip che ci sono su internet per dare un'idea di quanto visivamente meraviglioso sia questo film. Non solo ha una storia che è scritta in modo eccesso ed è toccante, ma visivamente il film raggiunge vette che da due esordienti, insomma, solitamente non ci si aspetta. E questo è ciò che stupisce maggiormente, proprio la tecnica, la delicatezza e l'ingegno che questi due registi emergenti hanno applicato nel realizzare questa opera cinematografica straordinaria. Che distribuzione sarà? La lista completa delle sale può essere trovata sia sulla nostra pagina Facebook di Officine Ubu che sulla pagina Instagram, sempre Officine Ubu, e anche sul nostro sito officineubu.com/gagarin. Si partirà con circa 55-60 copie in tutta Italia. Poi si sa, purtroppo stiamo già andando verso la stagione estiva e tanti cinema hanno anche già iniziato a chiudere le porte, però il film vale la pena di essere veramente visto sul grande schermo per essere proprio abbracciati dalla sua poeticità e dalla sua visionarietà. Quindi il numero di sale con cui debuttiamo è buono e speriamo che il passaparola ci permetta poi di raggiungere nelle prossime settimane sempre più città. Il film Gagarin, Proteggi ciò che ami, di Fanny Liatar e Jeremy Truil, al cinema da giovedì 19 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. Alla prossima! Alla prossima, grazie! Con Matteo Tortone, regista del documentario Mother Lode, al cinema da giovedì 19 maggio 2022, ben trovato. Ciao Federico, un saluto a tutti. Cosa hai raccontato? Ho raccontato una storia relativa alla corsa all'oro contemporanea, un film ambientato in Perù, tra documentario e finzione, in cui diventa inesplicabile capire cos'è documentario e cos'è finzione, perché raccontiamo la storia di un ragazzo che divide la sua vita tra guidare il mototaxi a Lima, in una periferia di Lima, e tra il mondo delle miniere informali. E lui si trasporta non soltanto in un mondo duro e crudo come può essere quello della miniera d'oro, ma ci trasporta anche in un'altra dimensione, in una dimensione in cui l'oro appartiene al diavolo, perché è così che gli è stato insegnato quando ci andò per la prima volta, quando aveva 13 anni, a lavorare in miniera. E quindi il percorso che noi facciamo con il nostro protagonista è un percorso molto fisico. Si tratta di 800 km di viaggio attraversando due paesi minerari ed è un viaggio che ci trasporta all'interno di cosa significa che l'oro appartiene al diavolo. E quindi si racconta la modalità con cui si convive con questa consapevolezza, cosa comporta, quali sono le dinamiche umane che crea e qual è poi in fondo il patto che ogni minatore deve stringere con il diavolo e cosa ciò comporta. Com'è nato questo progetto? È nato per un altro film, un documentario che ho girato in Tanzania, che si chiama White Man. Avevo avuto l'opportunità di girare per circa una settimana in una miniera informale tanzaniana e avevo percepito da una parte una dimensione veramente metafisica che si sovrapponeva alla crudezza della vita quotidiana di questo villaggio e dall'altra mi sono reso conto che era, diciamo, in un periodo di crisi economica il racconto relativo all'oro diventava veramente l'altra faccia della moneta della crisi economica, perché come sappiamo tutti i momenti di crisi i beni rifugio come l'oro aumentano di valore, ma non avevo mai realizzato prima di allora che a questo aumento di valore corrisponde una vera e propria un esodo di decine, centinaia di migliaia di persone che in tutto il mondo raggiungono i luoghi in cui si può estrarre in maniera più o meno informale l'oro. E quindi volevo raccontare questo movimento di conquista di nuovi territori. In questo modo si creano anche nuovi insediamenti, nuove città. E quindi ho cercato un luogo che potesse esteticamente raccontare questa conquista di spazio e sono incappato in alcune foto di questa cittadina, la Rinconada, in cui si chiude l'epopea del nostro protagonista, che è la città più alta del mondo, 5.300 metri, e dovete immaginare ad una sorta di bidonville, quindi di costruzioni di lamiera, in cui nei momenti di massima capienza ci si possono trovare 120.000 persone ed è costruita esattamente sotto un ghiacciaio, cioè molti dei tunnel della miniera iniziano attraversando uno strato di ghiaccio. E quindi mi è sembrato il posto che esteticamente potesse veramente raccontare una sorta di conquista della luna, ecco. E da lì sono partito per cercare di arrivare, quindi sono in qualche modo entrato da remoto in questo mondo veramente eterogeneo e complesso che è la miniera peruviana, perché il Perù è uno dei maggiori produttori di oro al mondo e coinvolge veramente milioni di persone, finché attraverso un poeta sono riuscito a incontrare José, che è il protagonista del film, e José dopo 5 minuti mi ha detto: guarda che sì, ho iniziato a 13 anni e a 13 anni ho imparato che l'oro appartiene al diavolo, e quindi attraverso di lui poi sono entrato anche in tutto ciò che è la metropoliesi di questi luoghi, è un tratto che condiziona veramente la vita quotidiana delle persone e che è in continuo aggiornamento, ecco. A proposito di estetica, c'è una fotografia in bianco e nero di grande nitore e luminosità, si vede il pulviscolo nei luoghi chiusi in controluce. Sì, questo è il grandissimo lavoro di Patrick Trash, che è un IP svizzero che ha creduto tantissimo nel progetto e che ha fatto veramente un lavoro eccezionale in luoghi impossibili, in condizioni veramente estreme, è riuscito a realizzare ciò che era l'idea del film. Come sappiamo, l'idea nasce davanti a un computer spesso o su un foglio di carta, poi bisogna che la camera si adatti ai problemi di equilibrio che i luoghi attraversati comportano, e lui invece è riuscito a dare veramente un rigore dello sguardo che consente poi appunto di non trovarsi di fronte ad un documentario così come ce lo si potrebbe aspettare, no? Da un documentario sulla miniera d'oro. Ecco, si entra veramente in un mondo, riuscito con la camera a creare un mondo che non esiste, che quindi riesce a mescolare veramente l'aspetto pratico e materiale della miniera con l'aspetto invece, se vogliamo, metafisico e di rapporto con queste entità che governano le miniere. Ecco. Che distribuzione sarà? Sono contentissimo perché è un film effettivamente molto difficile, perché è un film in bianco e nero e perché racconta un luogo che è lontano da noi, quindi sarà una distribuzione gestita e organizzata da Zalab. Partiremo giovedì 19 a Roma con due proiezioni, una al Troisi alle 20 e alle 21 all'Apollo 11. E poi proseguiremo su Bologna venerdì, poi torneremo a Roma sabato e domenica, sempre all'Apollo 11, e poi faremo Firenze, Bergamo, Padova, Genova, Torino. Partiamo già con un bel nucleo di proiezioni, alle quali parteciperò sempre anche io, e spero che se ne aggiungano nel frattempo altre. Ci dai tutti i riferimenti web per certo. Saperne di più? www.zalab.org, su Facebook sempre cercando Zalab, altrimenti si può cercare direttamente il mio profilo Matteo Tortone, che in qualche modo sono un megafono della distribuzione, ecco. Il film Motherlode al cinema da giovedì 19 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Matteo Tortone. A presto. Grazie a te, a voi. Con Costanza Marguglio di Wanted Cinema, che distribuisce il film Adorazione di Fabrice Dubels al cinema da giovedì 19 maggio 2022, ben trovata. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Come lo racconteremmo in breve? Adorazione è un film abbastanza complesso, sia per l'autore da cui è stato creato, sia perché è una storia assolutamente non convenzionale. Ora ve la racconto un po'. La storia gira attorno a due piccoli protagonisti, sono due ragazzini in età preadolescenziale, la cui vita, possiamo dire, viene stravolta da un incontro fortuito. Ovvero, da un lato abbiamo Paul, che è il dodicenne, che vive piuttosto taciturno, vive con la mamma nei pressi di una clinica psichiatrica dove lei lavora, e conduce un'esperienza abbastanza sedentaria. Lui però comunque è un ragazzino molto curioso, proprio durante una delle sue esplorazioni, gite nel bosco, che si imbatterà in Gloria, che invece è tutto il suo opposto. Gloria è una paziente della clinica psichiatrica che, rifiutando le cure, quindi tentando di scappare, si imbatte in Paul, con cui decide, seduta stante, di intraprendere una fuga, di scappare, di imboccare una vita diversa. Quindi è un film di formazione, un film su un amore molto particolare, è un film su cui lo spettatore, secondo me, lungo il suo sviluppo, dovrà autointerrogarsi molto su diverse tematiche. Ecco. Cosa ti ha convinto del film? Secondo me è molto interessante il fatto che Fabrice Dubels abbia trasposto dei significati così complessi e così ricchi in personaggi così giovani. È la prima volta che lui lavora, cioè abbiamo avuto modo di ascoltarlo in diverse dichiarazioni, interviste, è sempre stato molto disponibile, ci ha raccontato come fosse stato strano anche per lui lavorare con due attori giovanissimi, conferendogli però dei caratteri, dei personaggi davvero complessi e adulti, perché veramente c'è una carica emotiva fortissima lungo tutto il film, non soltanto data dall'amore, dalla passione, dalla fiducia reciproca tra i due ragazzi, ma in generale tutto quello che loro attraverseranno in questa loro fuga, quindi molto complesso. Che fortuna ha avuto all'estero? Dubels raccontava lui stesso, è sempre stato un autore abbastanza controverso, si è sempre occupato fondamentalmente di horror, di gore, quindi i suoi primi titoli hanno destato scalpore da sempre, da Calder del 2004. Questo però è un film molto più intimo, che ha sicuramente avuto il suo corso anche all'estero, soprattutto appunto per quanto riguarda lo scenario di cinema d'autore europeo. Ecco, dicevi di una sua provenienza horror, lo raccontiamo un po' come autore? Fabrice ha esordito, io sono una sua grandissima fan personalmente, perché è stato molto interessante anche notare che è proprio uno switch fondamentale in quello che è poi Adorazione. Ha esordito con un gore, che è il famoso Calder, un titolo presentato a Cannes nel 2004, ha continuato con tutta un'altra serie di piccole produzioni, poi si è spostato anche sull'action movie con Colt 45, poi c'è stato anche un approdo oltreoceano, quindi ha lavorato con Netflix a Message from the King, tra l'altro con Chadwick Boseman come protagonista nel 2016, quindi è sicuramente un autore che ha sperimentato tantissimo, e adesso ci raccontava che invece con Adorazione ha avuto modo di tornare a lavorare appunto in Belgio, sua terra madre, e di ricominciare a fare un cinema un pochino più intimo, più personale, ecco. Però ha mille sfaccettature la sua filmografia, è molto interessante. Che uscita sarà? una ventina di sale, tra l'altro in un bellissimo periodo, è un film tra l'altro ambientato costantemente in una radura, in un bosco, quindi perfetto per la primavera che stiamo vivendo tutti, e lo sono abbastanza ben distribuiti in tutta Italia, quindi ci sarà modo di raggiungerli. Il film a durazione di Fabrice Duvels al cinema da giovedì 19 maggio 2022, un saluto e un ringraziamento a Costanza Marguglio di Wanted Cinema che lo distribuisce. A presto! Ciao, a presto, grazie. Con Raffaele Schettino, regista del film Due donne al di là della legge, al cinema da giovedì 19 maggio 2022, ben trovato. Grazie, grazie per l'invito. Che racconto è questo? È un racconto di una famiglia allargata ad inizio Novecento, negli anni venti, in cui ci sono due donne e un uomo che decidono insieme di creare una famiglia. Come nasce il progetto del film? Da una storia vera che avevo orecchiato in occasione del primo film, Il Mondo Magico. Mi era stata raccontata questa storia di questa famiglia allargata e ho pensato che fosse molto originale riguardo ai diritti civili, riguardo anche all'esistenza di una famiglia diversa da quella tradizionalmente intesa, che in qualche modo andava anche contro quello che normalmente ci è stato raccontato, i valori soprattutto del sud, perché la storia vera da cui il film è ispirato è un piccolo paesino del sud, in una terra di confine, e mi è sembrato molto particolare perché il sud ci è sempre raccontato come tradizionalista, patriarcale, quindi sentire di una storia del genere mi ha un pochino solleticato e ci sono andato appresso e piano piano attraverso delle informazioni varie, e in questo mi sento di ringraziare Michele Maffucci, presidente dello Spons Festival, mi ha aiutato tantissimo a ritrovare la famiglia di origine, ad intervistare l'ultimo figlio ancora in vita, sostanzialmente per anagrafica, che mi ha raccontato questa storia. Mi ho constatato che era una storia di libertà, fratellanza e amore, paradossalmente accettata serenamente dalla società, persino dal parroco del paese, che poi ho scoperto essere molto diffusa come storia, non così originale, ma probabilmente l'originalità mi era stata dettata da un revisionismo storico che mi raccontava tutt'altro riguardo a quel periodo. Su quali aspetti hai voluto puntare? Principalmente io sono stato fedele e attaccato alla storia originale, che già di per sé ha una forza che si racconta da sé, diciamo. Quindi io l'ho seguita pedissequamente. Quello che mi è interessato principalmente porre il focus, che poi è la realtà della storia, è di una situazione in cui il contesto sociale più che patriarcale era matriarcale, ovvero sono le donne nel film e nel racconto che decidono di formare una famiglia allargata, quindi con valori in qualche modo rivoluzionari, non tanto per il tempo a quanto pare, ma quanto di più per adesso. Adesso una famiglia allargata in cui due donne e un uomo vivono insieme a tanti figli avuti in comune è una realtà di difficile accettazione al contrario del tempo. Quindi diciamo che il focus è proprio sulle donne che decidono di tenere questa famiglia insieme. L'altro focus, diciamo, è in qualche modo condito anche dalla magia popolare, alcuni stimoli di quella magia fatta di piccoli rituali, nella maggior parte curativi, che in qualche modo rafforzavano anche quel sentimento sociale del tempo, della comunità. E questa tua conoscenza del fatto che fosse una pratica comunque diffusa ti è venuta parlando del racconto in giro? Esattamente, mi è venuta a posteriori. Io ero partito con la curiosità e con l'idea di aver scoperto una storia originale. Mi sono dovuto dare conto che l'originalità era solamente dovuta ad un falso racconto, o quantomeno ad un racconto poco realistico rispetto agli avvenimenti e alla società del tempo. Sì, e parlandone in giro ogni volta usciva qualcuno: ah, anch'io conoscevo, anch'io avevo uno zio, anche mio nonno, anche qua, anche là. Ho detto, aspetta un attimo, forse ambientarla ai nostri tempi era paradossalmente più rivoluzionario. In realtà poi il film racconta proprio in costume come sia possibile. Insomma, è anche un contributo storico, ecco, riguardo a qualcosa che io personalmente ho subito e leggo e interpreto come revisionismo storico, che nel momento in cui tu mi racconti che la famiglia è tradizionale, è patriarcale e sono stati conquistati i diritti ed adesso è tutto diverso. In realtà c'è stata questa conquista dei diritti civili, per fortuna il divorzio non esisteva, una grandissima conquista, però la società, diciamo, che era paradossalmente molto più aperta ad accettazioni e situazioni, diciamo, che non fossero dominanti, ma fossero diffuse. Quindi un revisionismo di segno patriarcale religioso. A me quello che è arrivato a livello informativo da che sono piccolo è quello. Il sud patriarcale, il sud in cui la donna non contava niente, in realtà sia dal racconto di questa famiglia, sia dagli episodi diffusi in cui erano le donne che decidevano, va un attimo secondo me raccontata tutta la storia. Per il cast come ti sei mosso? C'è stato un vincolo proprio dovuto alla sceneggiatura che avevamo scritto, che parlava appunto di un'attrice di lingua francese in quanto forza, emigrata in Sardegna con la famiglia e poi successivamente emigrata poi nel sud. Quindi diciamo che per quanto riguarda il casting ci siamo orientati principalmente cercando appunto un'attrice che parlasse italiano, che però avesse un'inflessione francese. Tra i vari casting che abbiamo fatto abbiamo scelto Sonia Berg, che in qualche modo rientra anche all'interno dei criteri di scelta proprio del casting. Io predilico come regista sempre avere persone che sono formate nel teatro, secondo la vecchia storia, per cui uno inizia in teatro, passa al cinema e poi alla televisione. I tempi attuali hanno un pochino invertito la situazione, per cui adesso si passa dall'influencer alla televisione, al cinema e infine al teatro. Quindi diciamo io preferisco sempre attori che abbiano una formazione teatrale, perché un attore che lavora deve saper reggere un'ora e mezza di palcoscenico. Con le dovute differenze della recitazione cinematografica. Detto questo, anche all'interno della necessità apposta di avere una lingua con un'inflessione francese, e appunto abbiamo scelto Sonia di Gisberg. L'altro ruolo è stato affidato a Mara Cascagni, anche che viene dallo stesso ambito di formazione del teatro laboratorio, questo per quanto riguarda gli attrici principali. Poi attori molto importanti come Jean-Paul Denison, che appunto è un attore di fama internazionale, ha lavorato con Peter Brook per 30 anni anche come assistente alla regia. L'altra attrice è Luisa De Santis, figlia del famoso regista di Riso Amaro, Giuseppe. E l'altro ruolo è stato affidato invece a Clara Galante, altra attrice sempre che viene da teatro anche lei. Comunque il film è stato prodotto da Grosso Cinema, di cui io sono amministratore unico, quindi non ho solamente curato la regia ma anche la produzione del film. In quante sale? Una ventina, saremo in tenitura abbastanza costante, potrebbero uscire altre sale dal 19 in tenitura fino al 25 o anche oltre. E in particolare a Roma saremo presenti al Madison, in cui lunedì 16 è stata fatta l'anteprima del film. Sono tutte elencate sul nostro sito internet duedonnealdiladellalegge.com. Il film Due donne al di là della legge al cinema da giovedì 19 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Raffaele Schettino. A presto! Grazie, prego. Con Céline Guerrier, regista del documentario Italia, Il fuoco, la cenere, in tour al cinema da martedì 10 maggio 2022, ben trovata. Grazie, grazie per l'invito. Che racconto hai fatto? Abbiamo lavorato con Olivier Boller, l'altra regista, su delle immagini veramente stupende, create durante le 35 anni dell'invenzione del cinema. E dunque attraverso queste immagini, che sono immagini di documentari, di fiction, lungometraggi, cortometraggi, anche frammenti fatti da italiani ma non identificati, film di propaganda, film scientifici o militari, abbiamo voluto veramente vedere tutto e lavorare su tutto con questa esigenza di andare dalla fine dell'Ottocento fino all'arrivo del suono negli anni 30. E dunque era l'idea di vedere come la società italiana si rappresenta attraverso questo nuovo arte che era il cinema. E dunque era veramente questa idea di andare su un paese di una delle straordinarie, se fosse un paese sognato, si vede i paesaggi della fine dell'Ottocento e poi piano piano vediamo come è arrivato il peplum, la grandezza dell'impero romano e piano piano il film di propaganda con la guerra in India e anche l'arrivo del fascismo, che il cinema è un primo testimone di questo arrivo e poi c'è anche dei personaggi famosi dell'epoca come Machite, Francesca Bertini, Pina Michelli, Daborelli, Lidio Pugliot e grandi registi come Pastrone, dunque veramente è un'immersione totale, ma non è didattico, su un modo molto lirico, l'idea di avere la, di fare nascere della, la poesia che è in queste immagini. Com'era nato tutto? Qual è stata l'idea di partenza? L'idea di partenza è quando, perché con Chiedo siamo due registi francesi, abbiamo fatto altri documentari sulla storia del cinema e sull'uso degli archivi e anche abbiamo studiato il cinema all'università e se ne parla mai di questa periodo del mutuo italiano e per noi quando l'abbiamo scoperto al cinema ritrovato a Bologna era veramente qualcosa di incredibile perché con Olivier siamo totalmente innamorati della storia del cinema italiano e per noi è come se fosse tutto iniziato con la presa di Roma di Rossellini e tutta la nostra conoscenza parte di là e dunque anche per questo abbiamo voluto lavorare su questo film con Isabella Rossellini che legge i testi scritti all'epoca, ma ci siamo detti ma c'è tutto una partita, un paese intero che è sconosciuto e dunque dobbiamo andare a vedere queste immagini perché secondo noi tutte le radici del cinema di dopo, dei grandi registi come Cavicini, Pasolini, eccetera, ma vengono di questo e dunque c'era questo desiderio molto forte per noi di andare sulle radici e poi anche di avere una riflessione su oggi, cioè cosa facciamo della nostra memoria e delle immagini che stiamo facendo oggi, il modo di fare le conservazioni perché le copie pellicole anche se bruciavano, come se si tratta, rimangono solo nelle cineteche, ma oggi con le nostre immagini che sono sulle api. Come facciamo per la confermazione? Dunque c'è attraverso il modo di vedere il passato il desiderio di pensare anche a oggi e anche sul modo politico, la propaganda, tutte cose che deve avere questo dialogo con il nostro pubblico che abbiamo fatto attraverso le nostre didascalie perché noi non abbiamo voluto fare una voice over su modo televisivo perché non ci piace, dunque c'è solo Isabella Rossellini che legge i testi scritti all'epoca e noi abbiamo fatto delle intervistoli scritti da noi dove noi abbiamo un sguardo di oggi e proviamo di dire un po' che cosa ne pensiamo di questa storia e come questa storia può anche entrare in dialogo con la nostra storia contemporanea. Da quante opere avete preso materiale? Abbiamo una cosa data perché fa 10 anni che stiamo andando da tutte le cineteche per vedere i film. Siamo andati anche al Giappone, in Messico, a Prague per provare a vedere tutto quello che è rimasta perché hanno girato 10.000 film all'epoca ma solo 2.000 rimangono oggi. E noi abbiamo visto e abbiamo potuto lavorare su 1.200 film. E alla fine questa 100 ore di fizione sono quelle molto importanti. E poi ne abbiamo scelti alla fine una centinaia di film. Abbiamo veramente ridotto questo materiale. E anche abbiamo lavorato con 5 cineteche italiane che veramente ci hanno aiutato tantissimo, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, la Cineteca di Bologna, la Cineteca di Milano, del Friuli e soprattutto la Cineteca Nazionale a Roma che ha lavorato con noi tutti questi anni. E poi ci sono anche 2 altre cineteche molto importanti sul mondo italiano, l'Alfin Institute di Amsterdam e il CNC, Direction Patrimoine. A Parigi e dunque abbiamo potuto utilizzare questo materiale che sono conservate dalle cineteche dal lavoro incredibile che fanno gli archivisti. Per saperne di più sul film e sulle proiezioni c'è un sito internet o pagine social? Sul sito del Cinecittà ci sono tutte le proiezioni che sono scritte che dove c'è tutto spiegato e una cosa bellissima è che abbiamo potuto portare il film al Torino Film Festival e abbiamo vinto un premio molto bello che ci aiuterà per il

Daniela Ricci, curatrice della retrospettiva Il cinema di Haile Gerima nell'ambito del progetto Visioni del rimosso, lo sguardo cinematografico sul colonialismo italiano a cura dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. A Torino, Cinema Massimo, dal 24 al 29 maggio 2022, ben trovata. Grazie, buongiorno. Ci presenti questa rassegna? Sono molto contenta di aver avuto appunto questa possibilità con queste collaborazioni, che per la prima volta in Italia abbiamo una retrospettiva praticamente completa del cinema di Haile Gerima, che ad alcuni è molto noto, al grande pubblico forse ancora non abbastanza, proprio perché i suoi film sono stati visti poco in Italia. La rassegna attraversa tutto il suo cinema, quindi dai primi film degli anni 70 girati negli Stati Uniti sulla questione dei neri d'America, a tutti gli altri suoi film documentari e finzione, che attraversano quindi con quest'idea che potremmo proprio definire cinema della resistenza, della memoria, della liberazione, nato subito dopo le indipendenze, i movimenti di decolonizzazione, e che attraversa quindi anche la resistenza al sistema feudale etiope, ad esempio attraverso il racconto dei 3.000 anni, il film fantastico che poi è stato restaurato recentemente, e i film più recenti, ma vedremo anche degli assolutamente inediti in Italia, sia come documentari sia come la ricerca ancora in atto, che parte appunto, vengo al punto centrale anche della rassegna, dalla visione etiope della battaglia di Adwa, dell'invasione italiana, con l'ultimo film a cui Gerima sta lavorando da anni, di cui vedremo la prima parte in anteprima assoluta proprio giovedì 26. E rispetto al rimosso è proprio un po' quest'idea di andare a prendere delle parti di storia che erano un po' omesse e dimenticate o narrate sempre solo da un unico punto di vista. Quindi per me questa rassegna è molto importante per questa voce altra, che non solo nei contenuti ma anche nella forma estetica Gerima riesce a portarci. Dai cortometraggi, lungometraggi, finzione, documentari, avremo proiezione praticamente tutti i giorni con una decina di film che compongono la sua opera, che ha senso nel complesso perché è un'opera che attraversa i tre continenti, e quindi anche proprio questo punto di vista molto spesso delle persone che hanno dovuto lottare per liberarsi, che siano gli schiavi, i neri d'America o gli etiopi invasi, questo sguardo trasversale. Come nasce questa iniziativa legata al cinema e al colonialismo? Si inserisce proprio in un ambito di questo progetto Visioni del rimosso sul colonialismo italiano, che è un progetto con tante parti, di cui questa costituisce la seconda tappa di questo progetto. Nasce proprio anche dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza per questa voglia di andare a guardare in un modo un po' più largo quello che è stato il colonialismo italiano. Quindi in quest'ottica ci sono vari appuntamenti, e questo molto intenso appunto costituisce la seconda parte. Abbiamo già avuto una prima parte di tavole rotonde, incontri, e ci sarà poi anche altro, però questo è focalizzato appunto anche sullo sguardo etiope, su questo aspetto del colonialismo italiano che noi siamo abituati a vedere da un punto di vista eurocentrico, come la maggior parte del mondo è abituato a vedere. Le proiezioni sono accompagnate anche da momenti di incontro? Le proiezioni sono sempre introdotte da Haile Gerima stesso, che sarà in sala, e ogni volta da esperti storici o critici diversi. Per ogni film ci sarà sempre qualcuno, e avremo una tavola rotonda molto ricca con persone che intervengono dall'Italia, dagli Stati Uniti, e ricercatori di varie nazionalità, culture, origini e orizzonti di ricerca. Avremo giovedì 26 pomeriggio al Polo del Novecento, e quindi avremo la proiezione di questo inedito assoluto, questa prima ora di questo working in progress a cui Gerima lavora da quasi 20 anni, secondo capitolo dopo il film Adwa, questa volta sull'invasione dell'Italia fascista in Etiopia, e quindi questo primo work in progress che vedremo in anteprima, con poi un lungo panel di discussione. Il giorno prima invece, il mercoledì, al cinema vedremo proprio Adwa, una vittoria africana con questo titolo così simbolico, e con una tavola rotonda in cui intervengono storici, insegnanti di cinema in presenza del regista Haile Gerima stesso. Che figura è quella di Gerima anche rispetto alla sua filmografia? È una figura fondamentale, infatti pian pianino adesso tutto il mondo ha dei riconoscimenti. È un cinema di resistenza, è un cinema di liberazione, è un cinema che è nato negli anni 70 con la scuola dei registi neri di Los Angeles, ma soprattutto questa voglia di trovare un'estetica che non si conformi a delle regole dettate da altri, quindi che esce a combattere ogni tipo di dominazione e di egemonia, che sia politica, economica, culturale. Secondo me è un cinema necessario, urgente che spero più persone possibili possano vedere. Questo è anche un po' il senso della rassegna, della retrospettiva, di portare in Italia un po' tutte le sue opere che, come dicevo appunto, attraversano i continenti, ma con questo filo conduttore di dare il punto di vista delle persone che hanno combattuto per la loro liberazione, che siano gli schiavi, che siano quelli che si pensavano colonizzati o che siano i neri d'America. C'è sempre questa ricerca, questo punto di vista di empowerment delle persone che lottano per liberarsi, e soprattutto non solo i contenuti, secondo me sono fondamentali proprio per capire chi è questo grande regista, è la ricerca estetica molto personale che mescola un po' vari stili, anche la tradizione orale dove Guerrino è nato, no? È nato da tradizioni orali familiari, abituato a sentire questi racconti, come riesce a mettere anche questo nel suo cinema con uno stile proprio. Ci dai tutti i riferimenti web per maggiori informazioni e dettagli? Sul sito dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino, quindi www.ancr.to.it, e lì c'è il programma con altri riferimenti. Il cinema di Haile Gerima nell'ambito del progetto Visioni del Rimosso, lo sguardo cinematografico sul colonialismo italiano a cura dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza a Torino, Cinema Massimo dal 24 al 29 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Daniela Ricci, curatrice della retrospettiva. A presto! Grazie a voi, buona giornata! Con Giulia Giorgi, direttrice artistica della seconda edizione dell'Hip Hop Cinefest, di cui c'è la parte finale a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, 21 e 22 maggio 2022. Ben trovata! Ciao, ciao a tutti e tutte, grazie come sempre per lo spazio. Per chi non lo conoscesse, descriviamolo. L'Hip Hop Cinefest è un festival che raccoglie tutte le forme narrative che parlano di hip hop, dai documentari ai progetti corti, lunghi, di finzione, sperimentali, videoclip musicali, quindi insomma tutto l'immaginario visivo che rappresenta il mondo hip hop da tutto il mondo. Quest'anno quante opere avete messo insieme? Quest'anno sono state selezionate 161 pezzi da 20 paesi, di cui ovviamente la maggior parte sono videoclip musicali, ben 93. Quindi insomma abbiamo veramente una sessione bella forbita, che ovviamente non sarà totalmente mandata al cinema, ma è stata mandata in streaming per 2 settimane. Questa è l'ultima settimana per poterla vedere dal nostro portale popcinefest.org. Sono stati dichiarati venerdì i finalisti e i finalisti saranno proiettati al Cinema L'Aquila. Come si sta evolvendo la scena a livello internazionale? Le interconnessioni sono sempre più grandi, quindi siamo molto molto contenti e c'è sempre più mélange sia a livello di immaginario sia a livello di collaborazioni artistiche. Ci sono sempre più gruppi internazionali, ci sono alcuni paesi che magari mantengono di più delle caratterizzazioni, degli altri che magari sono un po' più sull'onda generale globale, ma comunque si riscontrano sempre delle caratteristiche, delle particolarità, delle unicità. A partire dal videoclip, il legame con il cinema è sempre forte. Sì, assolutamente, anche perché noi proprio lo scorso anno abbiamo organizzato una conferenza che si chiamava Fotografia Cinematografica Hip Hop. Cosa significa? E proprio infatti questo è uno dei punti, che cosa significa un'inquadratura hip hop, ed è quello che noi vogliamo andare ad analizzare. Il videoclip senz'altro è una delle maggiori forme comunicative che ha diffuso questa cultura in tutto il mondo e influenzato, no? Dai videoclip Super Crew alla Wu-Tang Clan fino ai videoclip più party della West Coast, fino ai video francesi magari un po' più stile la Haine, che tuttora continua ad influenzare tantissimo. Abbiamo rappresentazioni di periferie di tutto il mondo in bianco e nero con quello stesso tipo di immaginario. La scena femminile? È molto presente soprattutto dal Latino America. Abbiamo veramente delle artiste interessanti, prima tra tutte Maide Rimas dal Guatemala, con diversi videoclip iscritti e anche un piccolo documentario su di lei, e molto presente anche nel documentario We Resist, che è un documentario sulla scena argentina e all'interno del progetto Melas Cool, che è un progetto centroamericano dedicato all'educazione hip hop e abbraccia tutti i paesi del Centro America e tra l'altro molto attive Apollonia Aguilarte, che è una delle rappresentanti di questo network, che ci ha aiutato tantissimo anche con tutta la sottotitolatura dallo spagnolo all'inglese, quindi insomma ci sono delle situazioni molto interessanti e soprattutto che rappresentano tanti tipi di categorie anche marginalizzate, quindi siamo molto contenti soprattutto con il lavoro avviato dal gruppo latinoamericano. È prevista la presenza di autori e autrici? Sì, noi siamo insomma un festival totalmente indipendente, ma alcuni autori e autrici hanno deciso di intraprendere il viaggio comunque per supportare il festival, quindi avremo ad esempio Randolph Lewis, che è uno degli autori di WoW, The Voice of Ebony. Abbiamo il regista di Break the Scene Japan, che si chiama Silai Sixteido. Dopodiché probabilmente avremo diversi registi di videoclip finalisti italiani, siamo in attesa comunque di conferma. Abbiamo anche dalla Costa Rica Federico Peixoto, che verrà, che è il direttore di questo documentario che si chiama Tlaculios, dedicato alla scena graffiti latinoamericana, e il regista anche di un videoclip musicale che si chiama Canción del Oficio Remix. Forse avremo anche tra gli ospiti MC Gaza, che è anche il regista dei suoi stessi video in concorso. Quindi stiamo attendendo tutte le ultime conferme, ma diversi insomma autori saranno presenti e anche membri della giuria. Abbiamo Maximilian Sopor dalla Germania, che è uno dei nostri giudici. Abbiamo Rob Schwartz dagli Stati Uniti. Quindi insomma siamo contenti per quanto riguarda anche la partecipazione, perché tutti hanno capito l'importanza di supportare questo super progetto internazionale. I riferimenti web ce li hai dati. Seconda edizione dell'Hip Hop Cinefest, la fase finale è a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, 21 e 22 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giulia Giorgi. A presto! A presto, grazie mille! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.